un programma di Francesco Rigoni e Stefano Giacchè. Giochi di tutto. Tutto col gioco e niente per gioco. Cari amici di Radio Antidoto, io non so bene a che punto voi siete arrivati o se siete mai arrivati alle nostre voci parlanti. Questo però testimonia del fatto che probabilmente in questo momento non ci sta ascoltando nessuno, perché altrimenti ci avrebbero avvisato. Ma questa è la terza puntata di Giochi di Tutto, è del 3 novembre 2025 e sono le 18.06, quindi può darsi che per 6 minuti si siano sentiti solo dei tamburi. Io li farò sparire dal podcast appena finisce la puntata. Stavamo dicendo, per l'appunto, che Giochi di Tutto è un programma che racconta del gioco, cercando di varcare i confini del gioco, anche di scoprire quali sono i confini del gioco, tant'è che la scorsa puntata abbiamo parlato tanto di spazio. E questa puntata, caro Stefano, buonasera, ti risaluto perché non so, non ho idea. Nel dubbio, noi nel siamo dubbio, persone ciao. Esatto. E, caro ciao, Stefano, questa settimana, dopo un confronto non semplice su in che direzione prendere per affrontare questo episodio, abbiamo deciso di partire dal concetto, da un concetto complesso, cioè il gioco come cura. Allora, noi abbiamo i nostri spunti a schermo, insomma, li abbiamo come ancora di salvezza per evitare di smarrirci, però io voglio già provare a fare una domanda difficile, di quelle per cui poi sarà legittimo se provi dell'odio nei miei confronti. E cioè, secondo te, come facciamo a passare concettualmente dal nostro discorso sullo spazio del gioco al nostro discorso sul gioco come cura? Io, proprio adesso, mentre facevi l'introduzione, mm-hmm. pensavo che tutto sommato il fatto che tu abbia utilizzato la parola direzione mi avesse già dato un'indicazione riguardo. E mi viene proprio da dire che abbiamo rivolto la bussola verso di noi. Ok. Quindi la direzione spaziale, in realtà, a questo punto è verso di noi. Anche perché, e questa secondo me è la parte più interessante del gioco, è che noi non siamo soltanto non siamo soltanto di fatto l'attore, ma noi siamo anche chi riceve direttamente all'interno di queste dell'attività proprio l'effetto di quello che si fa. Quindi non siamo soltanto agenti, ma siamo anche direttamente i ricevitori. Certo, anche perché se vuoi, adesso te la butto lì così, è totalmente improvvisata, se vuoi lo spazio del gioco è uno spazio di persone, cioè non esiste il gioco senza le persone. Sì, anzi, da questo punto di vista, infatti, nella prima puntata avevo usato più volte il termine meccanica. Ok. Che fa pensare automaticamente a qualche cosa che sia esterno a noi. Sì. Ma in realtà sono sempre comunque delle modalità di interazione tra di noi, tra noi persone. Il gioco è inevitabilmente qualcosa che riguarda chi sta giocando. Diciamolo in generale, perché poi io non ho mai fatto studi di etologia, ma mi hanno sempre detto che quasi tutti gli animali giocano. Certo, vero. Vero, cioè non so quanti, però quasi tutti ci può stare, cioè almeno i mammiferi li ho visti giocare, ecco, non so se gli insetti, sì, esatto, giochino. Ma sì, mi sembra di aver letto da qualche parte che anche le api in realtà fanno una sorta, cioè nella danza. Quarta puntata, subito. Vabbè, va, guarda, tempo di prepararci. Infatti. Però sì, c'è questo aspetto. Il discorso qual è? Che noi chiaramente lo vediamo non soltanto in termini di preparazione alla vita vera, ma lo vediamo anche come una possibilità di leggere all'interno di quello che stiamo facendo qualcosa che ci riguardi direttamente. Certo, una sorta di simulazione. Esatto, però diventa anche inevitabile, perché soprattutto quando noi siamo all'interno di una certa situazione e ne siamo totalmente presi, da lì noi traiamo sicuramente ispirazione e anche indicazione rispetto al proprio atteggiamento. Certo. Tra altre Così. cose, mentre mi parlavamo di questa cosa di gioco come persona, ho avuto un flash, perché devi sapere che io questo weekend sono stato a Parma e ci siamo fatti un regalo, nel senso che io non avevo mai visto una partita di Serie A e non avevo mai varcato le soglie dello stadio Ah. Tartini. Ed essendo io tifoso del Parma, ed essendo che ieri c'era Parma-Bologna 1-3, così lo dico subito, Yes. sono andato a vedere la mia squadra del cuore prendere sberle in faccia dai nostri peggiori nemici, però vabbè, succede, soprattutto se sei scarso. Però la cosa che mi ha colpito subito, immediatamente, e come dire, non avrà grande spazio in questa puntata questa riflessione, però in questo momento c'entra molto come cambia tantissimo l'esperienza della partita di calcio e dico in particolare il calcio perché noi italiani ci campiamo, cioè ci nasciamo e ci moriamo col calcio dalla TV allo spazio reale, cioè quei corpi sul campo erano corpi reali. E di botto anche la partita di pallone, che è la cosa tra l'altro più ormai evanescente e fastidiosa che abbiamo attorno, perché se ne parla, ci si ostina, la TV, la qualità, si paga per vederla, qualunque cosa, qualunque discorso attorno al calcio, ormai esclude l'idea che ci siano comunque 22 cristiani su un campo, tra l'altro molto grossi, molto, molto grossi, Immagino. e anche quello che succede in campo è proprio diverso, nel senso che la TV lo fa sembrare più veloce, per esempio. Cioè, è incredibilmente più veloce quando lo guardi la TV. Dal vivo ha una velocità normale che tra l'altro tu conosci perché comunque, bene o male, a calcio ci hai giocato, hai visto qualcuno giocarci. Ovvio, quelli di Serie A sono più bravi, si tirano anche dei calci decisamente più forti di quelli che ti tiravi tu con i tuoi amici. Però, nel senso, di botto ti rendi conto che il calcio non è un'invenzione della pubblicità, cioè è il contrario. Cioè, il calcio sono persone vere che giocano in uno spazio vero ed è stato molto, molto riappacificante rispetto anche alla cultura calcio, che comunque è un aspetto molto invadente, nel nostro paese rispetto al fatto che sappiamo. Quindi, Mi fai persino una. venire in mente. Vai, Dimmi, dimmi. vai, vai. No, vabbè, volevo dire, persino una cosa come il calcio, che alla fine appunto ha tutte queste caratteristiche qui, poi alla fine è comunque persone su un terreno che giocano, anche quello più vero di tutti, non è solo quello del parco con gli zainetti. No, esatto. Però mi fai venire in mente appunto due cose. La prima è sul fatto che dicevi che il calcio visto in televisione è più veloce. Mi torna Pazzesco. in mente una citazione che dovrebbe essere di Hitchcock, che diceva che il cinema e anche il teatro in realtà è la vita senza i tempi morti. Sì, può essere effettivamente. Beh, perché poi invece sai che cosa la cosa buffa? È che il calcio dal vivo è il calcio in TV senza i tempi morti. Nel senso che il calcio in TV comunque è noiosissimo. Il calcio dal vivo no. No, Cioè, è anche pazzesco. dura un'eternità, perché a un certo punto, ma soprattutto se sei sotto, se stai pareggiando 1-1 in 10 e poi sei sotto 2-1, insomma, è faticoso alla lunga. Però lasciando perdere quel aspetto lì, comunque al 60esimo cominci a dirti: oh, ma quando è che finiamo? Bella, è tosta. Assolutamente. E torniamo anche al discorso che facevamo sul tempo la volta scorsa. Il tempo cambia la sua durata e la sua percezione proprio nel momento stesso in cui sei preso. Sì, poi vabbè, il calcio come altri sport, ma in Italia direi solo il calcio, è proprio un rito, quindi nel momento in cui fischia l'arbitro si entra in una dimensione della realtà differente, anche il tempo è dilatatissimo, perché appunto al 60esimo eravamo disperati, tra l'altro pioveva a dirotto, insomma era una faticaccia immane. Detto questo è anche volato, cioè comunque sono le 18:14 del lunedì e io ero da un quarto d'ora seduto a caso allo stadio Tardini ieri, quindi è stato comunque un attimo poi alla fine se vai a ben guardare. Assolutamente. Però diciamo, io non so, tornando al nostro argomento, se il calcio si presta al concetto di cura, forse non il calcio di Serie A. No, in realtà io sono convinto anche il calcio di Serie A, a parte che se ti è capitato, ci sono stati negli ultimi anni anche tantissimi giocatori, tantissimi calciatori, anche nel calcio finalmente, che hanno iniziato a fare un forte coming out relativamente alle difficoltà psicologiche. Sì, vero. E che hanno, per esempio, uno come Robin Gosens ha detto esplicitamente che il suo obiettivo, una volta ritirato, è di diventare psicoterapeuta. No, peraltro Gosens è veramente bellissimo esempio perché Gosens è una persona molto molto consapevole, intelligenza molto acuta ed è effettivamente un grande portavoce di questi temi anche sui social. Sì. È una persona molto interessante da seguire, per chi non lo sapesse, è un centrocampista non è più all'Atalanta La adesso, Fiorentina, Gosens. no, adesso la Ah, Fiorentina. No, poveraccio, non lo invidio per niente. infatti. Infatti io ieri pensavo, se per me è così, pensa alla Fiorentina. Comunque, chiusa parentesi. Però detto Però vedi, questo, anche quello in realtà rientra anche nel fatto che da tifosi, spesso e volentieri, una cosa che vedi è: ah, ma com'è possibile che quello che abbiamo preso, che doveva essere più forte, non rende? Poi lo riporti in un certo contesto e improvvisamente ridiventa. Questo verissimo. Ma tra le altre cose, ieri la discorso. partita è stata illuminante perché da tifoso comunque vedi la tua squadra che fa schifo perché quest'anno il Parma sta facendo schifo, non c'è che c'è bisogno di girarci attorno e li ho visti in campo, ho visto lo stadio, tutto lo stadio, eravamo tutti depressi, noi, loro, e c'erano i bolognesi che invece erano allegrissimi, avevano gli ultra che facevano delle cose musicali pazzesche che volevo registrare. Mentre registravo abbiamo preso il terzo gol, o il secondo, non mi ricordo più. E fatto sta che effettivamente, anzi, potrebbe essere un gancio interessante per quello che stiamo dicendo e capire. Lo sport professionistico può creare delle dimensioni di forte stress mentale che può sfociare nella depressione, può sfociare anche in momenti estremi, come vabbè, il più famoso di tutti in Italia è Ilicic, che peraltro nel senso ha subito anche una forte stigmatizzazione per la sua fragilità. Ah, tant'è che ha Sì. dovuto andarsene via mandando a stendere un tot di gente. E la domanda è come si trasforma un gioco in uno strumento di cura? Nel senso, lo sport professionistico non sembrerebbe uno strumento di cura, ecco, per le persone. Diciamo che per trasformarlo esplicitamente avremmo bisogno di invitare almeno una persona che si occupi direttamente di psicoterapia. Vabbè, sì, certo. Questo proprio perché deve avere un'intenzione curativa. Certo. La fortuna del gioco, in realtà, è che proprio perché è un ambiente che è autonomamente protetto, o almeno così dovrebbe esserlo, però il contesto già ti mette in quella possibilità, ti dovrebbe di per sé stesso dare già, se non gli strumenti, almeno un contesto in cui poterti curare. Certo. Perché il gioco è un'attività che ti permette effettivamente di affrontare senza tutte le pressioni di cui appunto giustamente parlavi, perché effettivamente ti metti, ti sperimenti un'altra volta. Io è una cosa che ho vissuto in prima persona, perché Che era una domanda che volevo farti. diciamo che ti anticipo, perché in qualche modo lo temevo, per cui. Hai fatto bene. Stai cominciando a Sì. capire come opero. Entro nella tua rete. No, il fatto è questo. Qualche anno fa, peraltro, è stato proprio all'interno del periodo del lockdown. Io sono sicuramente stata una persona che ha sofferto molto la cattività, tra virgolette. Anche perché in quel momento, comunque, la casa si era fatta estremamente stretta. Certo. Ho partecipato a settembre, direi che fosse settembre, a un LARP che si chiama Tutti hanno un segreto. Un LARP che ormai è diventato, penso, il passaggio obbligato per tutti quelli che ci giocano, perché si svolge in un convento abbandonato sopra Firenze. Ma sì, ma è anche Comunque sei una il più località. grande venditore di LARP al mondo, voglio dirtelo. Cioè, nessuno. Guarda, Pazzesco. Potrei smentirti perché vengo da un weekend a Lucca dove sono andato appunto con la Chaos League a far giocare e ho scoperto che una mia amica ha doti altro che da venditrice, cioè da butta dentro. Cioè noi ci siamo trovati a un punto che le abbiamo detto dobbiamo spararle alle gambe perché arriva troppa gente e non sappiamo come Butta gestirla. dentro, secondo me, è una cosa diversa. Però effettivamente tu riesci sempre a raccontare, riesci sempre a pescare dal mazzo dei LARP delle cose che lo proiettano molto fuori, appunto, dai famosi vergini di What We Do in the Shadows. Nel senso, diventa tutta una cosa più seria e anche più misteriosa, inquietante, affascinante. Cioè, è un mondo veramente ricco e complesso. Ah beh, quello di sicuro. Poi in realtà il fatto è questo, le cose succedono, si pensa sempre per caso, però poi tutto sommato è perché tu in quel momento sei particolarmente ricettivo rispetto al tema. E tutti hanno un segreto, si svolge questa ambientazione anni 80-90 e l'idea è questa. Tutti i giocatori sono ex ospiti di un orfanotrofio. Erano quindi tutti quanti bambini nello stesso orfanotrofio, vengono allontanati e dati tutti quanti in affido frettolosamente quando un bambino muore. E succede quando hanno circa comunque 10-11 anni. Siamo in quell'età lì. Qualcuno più grande, qualcuno più piccolo, ma siamo in quell'età. Quindi, dopo questo fatto vengono dati velocemente tutti quanti in affido, l'orfanotrofio viene chiuso. 20 anni dopo ricevono tutti quanti una lettera che li invita a salutare per l'ultima volta appunto il bambino morto. Perché c'è una cerimonia, che viene organizzata e quindi sono stati richiamati tutti quanti. E quindi ci si ritrova 20 anni dopo. Tutti quanti orfani, tutti quanti che avevano i loro Ex legami da orfani. bambini in quel contesto, esatto, quindi ex orfani. Chi si è integrato, chi lo ha fatto un po' meglio, chi un po' peggio. E la vicenda poi, quindi ha un'ambientazione che diciamo riprende film tipo Stand by Me. E ovviamente mi fermo qui, mi fermo con l'antefatto. Il mio personaggio in particolare, tutti quanti i personaggi chiaramente, ognuno con le proprie turbe. Eh sì, no, cioè, perché ognuno ha un segreto, diciamo, tutti hanno un segreto. Esatto. Il mio in particolare rifletteva molto bene la condizione che io in quel momento sentivo di provare, che era una condizione che mi ha fatto pensare più volte che sarebbe stato meglio se io a un certo punto scomparissi. E il caso ha voluto che il personaggio che mi è stato assegnato avesse esattamente lo stesso punto di vista. E quindi, ma nessuno lo poteva sapere, perché Certo. ovviamente non è una cosa di cui fai menzione. E è stato un caso e io l'ho giocato fino in fondo. E questa cosa si è risolta praticamente nel momento finale, ma il fatto che per 2 giorni io abbia sentito, poi ho avuto anche la fortuna che è stata una delle prime volte che ho giocato con tanti amici, perché persone che conosco da anni dall'improvvisazione teatrale. Quindi è stato un caso che ci siamo trovati tutti quanti assieme per la prima volta e quindi essere stato investito da così tanto affetto, poi in realtà tutto quanto lo portava, ha fatto sì che io sia tornato a casa, che avevo effettivamente cambiato idea. Il punto è, non lo potevo prevedere. Nel momento stesso in cui avevo ricevuto il personaggio, l'ho accettato fino in fondo, anche perché non avevo indicato trigger. Ecco, una cosa fondamentale relativamente alla cura, penso che ne avessimo accennato un pochino all'inizio, nella prima puntata, e normalmente c'è un discorso di safety molto potente nell'ARP, per cui non è, cioè è consigliato di stare bene attenti a quelli che sono i temi che certi personaggi possono andare a toccare. Quindi, se ci sono dei temi che per il tuo vissuto personale non è il caso di andare a sollecitare, è bene che tu questa cosa la sappia. E peraltro, magari durante il gioco c'è sempre la possibilità di mettersi, tra virgolette, in pausa o di chiamarsi fuori. Ad esempio, sabato. Non mi capita molto spesso, ma sabato mi è capitato di vedere una ragazza che ha voluto giocare Prima Vennero, il gioco di cui ti Sì, parlavo la prima sì. puntata, e l'ha mollato a metà. Perché Certo, perché è sì. uscita, ma ha detto, è venuto fuori un argomento che non ero pronta ad affrontare. Benissimo, hai tutto il diritto. Ma tra le altre Quindi, cose. Ah no, scusami, prego, vai. no, niente, era soltanto per, in realtà, per finire. Quindi cura proprio in questo senso, cioè avere rispetto di se stessi e degli altri, e proprio per questo motivo sei più ricettivo, rimani più in ascolto di quello che ti sta succedendo e di come ti parla il gioco. Certo. Tra le altre cose, adesso per fare un po' il saputone della situazione, citerò Victor Turner, teorico dell'antropologia della performance, perché in realtà quello che tu racconti in qualche maniera può rientrare un pochettino nel suo discorso, nel momento in cui, tra l'altro, quello che tu racconti riesce a specchiarsi, se non addirittura a sovrapporsi, quello che accade, come dicevi tu, nel teatro e anche nei gruppi psicodrammatici e anche nei sociodrammatici. Cioè, il fatto che si entra in una dimensione soglia nella quale tu, appunto, quello di cui parlavamo la scorsa settimana, entri in uno spazio contraddistinto da alcune caratteristiche particolari, tali per cui in realtà nei giochi degli adulti appunto ci sono delle attenzioni specifiche che sono appunto premure rispetto alla sicurezza, per cui che sia lo psicodramma o l'ARP, a come stiamo dicendo, ci sono dei punti di attenzione nei quali si attivano dei campanelli quando le persone non sono più a loro agio. Col teatro è un pochettino diverso, dipende dal regista, però Sì. appunto in verità sto andando proprio a citare il regista, è proprio quello che mi interessa, ovvero nel teatro c'è il regista e in qualche maniera la tua azione di sicurezza è sapere con che regista ti stai andando a mettere, perché un regista teatrale, soprattutto teatrale, può essere un vero barbaro, cioè può distruggerti fino all'osso per la sua ricerca personale, perché il rapporto tra regista e attore nel teatro sono pieni libri di storia e ci sono storie anche tremende per persone che sono completamente state devastate dall'esperienza teatrale, ma proprio per la potenza dell'immedesimazione e anche la richiesta della trasformazione di se stessi nel personaggio a seconda del contesto, della drammaturgia. Però nello psicodramma c'è il conduttore che in qualche modo invece si pone come tutela, anche lì però è un regista, quindi ogni conduttore avrà la sua idea di tutela. Il più famoso, cioè il padre dello psicodramma Moreno, era abbastanza un barbaro pure lui, ti buttava nel fuoco, ti diceva guarisci e tu uscivi dal fuoco più o meno guarito, perché io ho letto i suoi saggi e non so se avrei avuto la forza, cioè eravamo molto vicini a un teatro sperimentale più che a un percorso terapeutico. La mia domanda, con questa lunghissima introduzione, è: chi fa il regista barra conduttore in un LARP? Esiste questa figura? Cioè, chi è che, come dire, è abbastanza, è dentro, ma con quel mezzo piede fuori da poter premere l'allarme nel momento in cui c'è, in qualche maniera, da tutelare il benessere di una persona? Allora, all'interno dell'ARP da camera, a parte il facilitatore, quindi chi in genere si prende la briga di imparare le regole del gioco e spiegarle, quindi appunto l'esperienza di questo weekend era che c'era qualcuno di noi che faceva giocare gente che non aveva mai giocato, quindi automaticamente è una figura esterna al gruppo. E quindi questo fa sì che una volta che io ti spiego le regole, ti do tutte le istruzioni che ritengo siano necessarie, in realtà faccio un passo fuori e quindi non c'è più il regista, il conduttore, è il gruppo ad autoregolarsi. Diventa importantissimo da questo punto di vista dare le indicazioni relativamente alla modalità di gioco. Quindi di nuovo, un gioco comico o un gioco, per esempio, uno dei giochi che abbiamo, sicuramente che ho facilitato di più questo weekend, Out of the Dodge, è una situazione simile alla rapina delle Iene di Tarantino. Quindi quattro rapinatori in fuga, uno è ferito, se c'è un bottino, come se lo spartiamo? Quella roba lì però potenzialmente ha in sé della roba che può andare a triggerare. Certo, assolutamente. Però il contesto stesso e la modalità in cui te lo spiego ti fa capire che esattamente come le ambientazioni alla Tarantino non c'è introspezione, non c'è volontà di andare a toccare cose tue. Ti stai letteralmente mettendo una maschera e guidi a 180 all'ora in autostrada. Quindi in qualche maniera è dichiaratamente, l'avevo detto giusto, dichiaratamente finzionale, fittizio. Esatto, Però. è chiaro che in un gioco che va più a toccare corde emotive, è lì invece ci deve essere la spiegazione chiara relativamente alle regole di safety. In un LARP immersivo che dura più giorni, ci deve essere sempre una figura a disposizione, più di una. Quindi c'è uno staff che oltre alla facilitazione e a seguire le regole e lo fa in funzione di personaggi non giocanti. È il tuo appiglio nel momento in cui qualcosa non dovesse andare. Certo, sì, infatti, cioè quella è la parte un po' importante, anche perché è affascinante da questo punto di vista il LARP e mi viene un po' voglia di chiederti un po' di storia del LARP perché, come Radio Antidoto insegna, nel senso c'è una teoria che, insomma, è una teoria che si avvicina molto all'anarchismo, che crede nella capacità di autoregolazione dei gruppi. Oggi faccio una fatica a dire proprio le parole. L'autoregolazione dei gruppi, ovvero, secondo certe persone, e per certa misura è così, o quantomeno se ne accetti gli esiti è sempre così, un gruppo si autoregola, cioè prende una forma e nel percorso in cui perde la fo in cui prende questa forma assume delle caratteristiche, ne sfoltisce altre e poi raggiunge un suo stato, diciamo così, di funzionale, inerzia funzionale. Ecco, adesso sto andando un po' a braccio, nel senso, quindi funziona nella misura in cui poi assume delle dinamiche ricorrenti e prevedibili e gestibili. E questo lo fa in assoluta autonomia, qualunque gruppo in qualunque posto del mondo. E questa cosa qui è vera. Allora io mi domando se nella testa di chi ha inventato l'ARP non c'era anche la voglia un po' di dimostrare questo. Cioè, l'ARP nasce anche come in qualche modo teoria politica, nel senso vi dimostriamo come il gioco giocare di ruolo dal vivo crea comunità autosufficienti, tra virgolette, autoregolate, più che autosufficienti, autosufficienti. Ammetto di non avere una risposta relativamente alle intenzioni iniziali. Su questo posso sicuramente provare a investigare meglio. Ovviamente, però, nel momento stesso in cui tu cominci a ragionare in termini di comunità, questa Questa cosa ha avuto molto rapidamente in realtà anche una posizione politica, perché è giusto definirla tale, cioè non perché debba essere legata a una posizione specifica, tu stai analizzando come questo gruppo di persone, con la loro cultura pregressa, perché è innegabile, è in grado di interagire in un certo contesto e in una certa situazione. L'anno prossimo torneremo a giocare Bunker 101 con la Chaos League sotto il Monte Soratte, quindi nel bunker che fece costruire prima Mussolini, poi fu utilizzato per un anno da Kesselring e poi il governo italiano lo tenne in uso. E giocheremo una comunità di 125 persone rimasta agli anni 50, che si è barricata all'interno di questo bunker e nel momento in cui c'è un fallout atomico e lo scoppio di una guerra nucleare. 100 anni dopo i discendenti continuano a vivere negli anni 50. Però Sì, come Fallout. 120... Esatto, sì, prende le mosse da Fallout il videogioco, assolutamente, certo. Però il discorso è proprio quello. Bello il videogioco, bella la serie. Ma tu come vivresti all'interno di questo contesto, in cui le regole dettate dai tuoi nonni o bisnonni sono molto chiaramente: qui sopravviviamo se e solo se ci diamo queste regole, che non sono quelle che avevamo fuori. Certo, ma ti chiedo, ma la Chaos League, che alla fine torna spesso nei nostri racconti, perché appunto sicuramente è dietro l'organizzazione di molte cose interessanti che tu ci racconti, utilizza mai i suoi, come dire, in qualche maniera le sue esperienze di gioco, le racconta mai poi ex post, cioè a cose fatte come... Anche un'esperienza, diciamo così, di riflessione, cioè diventano articoli, diventano racconti, diventano analisi, diventano approfondimenti, perché in effetti tutti questi LARP che mi hai raccontato alla fine sono esperimenti sociali e mi sorprenderebbe abbastanza se nessuna delle persone coinvolte poi non buttasse giù due righe per raccontare effettivamente che cosa ha visto. Allora, una cosa che ho visto ultimamente è che, per esempio, nel loro caso, poi non ti so dire purtroppo le altre associazioni che operano in Italia, ho visto che hanno aperto adesso un Patreon e c'è la possibilità di iscriversi anche gratuitamente. E ho visto che l'idea è di utilizzarlo, diciamo così, a mo' di blog. Bello. Con riflessioni, sì, esatto. Penso principalmente per il pubblico internazionale, perché ho visto soltanto riflessioni in inglese. E penso proprio che, non mi sono purtroppo soffermato ancora, ma penso proprio che vada esattamente in questa direzione, cioè riflessioni ex post. Poi in realtà ci sono anche libri che si possono pure scaricare gratuitamente dal loro sito, in cui ci sono le riflessioni che soprattutto gli anni passati facevano delle loro esperienze e anche di come il LARP diventa appunto strumento di riflessione sociale, che per me comunque rimane molto vicino alla cura, perché vedendo una società, poi è chiaro, è un mio punto di vista, però una società che ha cambiato chiaramente il proprio approccio verso l'individualismo molto più che verso il comunitarismo, è chiaro che questo sicuramente ha quel tipo di approccio di cura. Beh, sì, anche perché volesse essere solo puro intrattenimento, non si prenderebbe la briga di portarti in un bunker a farti giocare la società anni 50 o appunto l'orfano col segreto alle spalle, cioè basterebbero tutti i giochi tipo appunto l'area furtiva di Tarantino, ecco. Per quanto poi alla Esatto. fine qualsiasi gioco che, qualsiasi attività... che in qualche maniera prevede una sorta di immersione appunto di dimensione liminale, quindi di superamento dello spazio della cosiddetta realtà, che poi a guardare comincia a diventare molto poco, perché entri in un limine, esci in un limine, quello è un limine, quello è una soglia, entri in una dimensione, ti metti una maschera. Quello che è vero o non è vero comincia a diventare un po' un po' poco in termini proprio di sostanza e di tempo che ci passi assieme. Detto questo, cioè, ciascuna di queste occasioni può essere un momento per pensarci su. Io ti volevo chiedere, secondo me è molto importante rispetto al discorso della cura, nel senso che noi non stiamo parlando in senso stretto su come il gioco ti dà, cioè in che maniera interviene sulla persona per aiutarlo a superare una qualche forma di disagio, dalla più lieve alla più profonda, eccetera, eccetera. Anche se tu ci hai raccontato la tua esperienza di gioco durante il Covid, che è un'esperienza molto profonda e importante. Quello che ti volevo chiedere, poi magari mi racconto anche un'esperienza anch'io, adesso vediamo un po' dove andiamo, ed è una domanda che forse ti avevo detto che ti avrei fatto, ma non è proprio dentro, forse è dentro la scaletta, adesso non mi ricordo, però ci assomiglia molto. Sì, poi racconterò l'esperienza che ho fatto, perché effettivamente c'entra molto. Che persona sei quando esci dal gioco rispetto a quando ci sei entrato, quando stai giocando? Mi verrebbe da dire tutti i giochi, ma usiamo l'ARP, il gioco di ruolo, proprio perché richiede un grado maggiore di immersività, cioè chi sei dopo Sì. aver giocato? Questo non mi ricordo se l'avevamo toccato, è quella cosa che viene chiamata bleed. Ne avevamo parlato, sì. E quindi è proprio il fatto che ci sia, infatti, ah, giusto, che avevi proprio detto che in editoria I ha un bleed sono altro. i tratteggiamenti di sicurezza per evitare di Esatto. stampare la pagina fuori dal foglio. E lì c'è proprio il discorso del trapasso tra personaggio e giocatore. Inevitabilmente, nel momento in cui hai un'esperienza immersiva, tu esci che ti porti appresso Certo. l'esperienza che hai vissuto per tot tempo. Se si trattasse di un'esperienza di un'ora, ma anche, come mi è capitato, è stato un mesetto fa, ho fatto un LARP di un giorno, tra l'altro un posto bellissimo perché eravamo all'osservatorio astronomico di Medicina fuori Bologna e Proxima aveva organizzato questo Null Hypothesis che serviva, invece lì aveva anche uno scopo educativo relativamente alla conoscenza dei temi astronomici, oltre che dell'ambiente. E quindi ecco, il discorso è, in una situazione del genere, in un giorno, non ci siamo costruiti un grande background e quindi fai fatica effettivamente a dire mi porto a casa un lavoro forte di emotività. Lo fai per 2 o 3 giorni di fila, ti porti inevitabilmente qualcosa di più a casa, perché tu hai vissuto una vita. Paradossalmente credo che la questione di passare le notti, questa è una cosa che di cui mi sono sempre accorto, e tutte le volte che mi è capitato di giocare dove si andava a dormire in personaggio, l'esperienza era fortissima perché mi rendevo conto che andavo a dormire e mi risvegliavo che non ero Stefano, ero il personaggio. Wow, sì, in effetti. E questo però mi fa venire una domanda incredibile, che chissà, chissà. E tu ricordi, hai ricordi dei sogni che hai fatto in quelle notti? Tendo a ricordarmeli poco in generale i sogni. Purtroppo Ok, sarebbe stato tendo a ricordarmeli. molto affascinante e sarebbe molto figo organizzare una ricerca su cosa sognano i giocatori di ruolo nelle sessioni da più giorni in cui devi andare a dormire, perché effettivamente vai a dormire con i vestiti con cui ti svegli il giorno dopo, praticamente, cioè sei proprio un'altra persona. Esatto. No, d'altronde. Un conto è se sei in un contesto urbano o comunque riconoscibile. Cosa sogni quando sei nel deserto? Cosa sogni quando sei in una base spaziale? In un bunker. Sì. Per cui, sì, esatto. Cioè, sono quelle cose lì. È giusto. Non ci penso mai proprio per dire il fatto che non mi capita, ma solo per quello. Quindi ecco, il discorso è quando tu esci in quel caso, tu ti porti appresso, e questo penso che sia l'aspetto più importante relativamente alla cura, tu ti porti appresso quelle emozioni che tu hai vissuto con un'altra pelle. L'altra sera a tavola, dopo la prima giornata, non mi ricordo da dove siamo partiti, però si parlava proprio del fatto che comunque per la maggior parte dei giocatori quello che ci si aspetta e ci sta è che tu giochi al 90% te stesso in un altro contesto. Non è che qualcuno ti chiede di fare, che è una cosa che infatti si ripete sempre, la grande performance teatrale, è un'altra roba. E guarda un po', tu hai detto chiaramente, è quello che ti può venire richiesto da un regista e anche un regista che magari ha una certa visione esterna. Ma lì non è quello che viene richiesto e quindi è anche corretto e sensato dire, beh, ma se per moltissime cose sono io, cioè non è che io ho avuto motivi di ragionare su come mangio o come mi siedo o come cammino, anche perché poi è una roba che devi tenere. Certo. Quindi ne vale la pena fare quel tipo di trasformazione? O vale più la pena lavorare sull'aspetto di, ok, io ho questo background, quindi probabilmente quella particolare attività mi farà reagire in una certa maniera. Quindi. Io posso dirti questo, nel senso che Sì, mentre no, racconta invece la parlavamo, tua esperienza. tra l'altro, nel frattempo non so perché delle finestre hanno preso vita da sole, mi sono arrivate in faccia, non ho schiacciato nulla. Boh, vabbè. Fate voi, il computer prende il possesso di se stesso, tanto non manca molto. No, tra l'altro ho scoperto che, vabbè, vendono in America vendono a 20.000 dollari un robot che ti fa le faccende in casa. E che a quanto pare puoi preordinare e inizieranno le consegne la prossima primavera. Adesso non mi ricordo più come si chiama. Tra l'altro ha un nome tipo Nio, ha un nome super. Forse è Nio si chiama. E ha fattezze umanoidi. Ed è fatto di. È tutto coperto tipo di gomma piuma per renderlo soffice e tenerone. Infatti ha un aspetto tenerone. Però comunque è esattamente il tipo di automa che ti aspetti in un film che ti strangoli. Perché il software andava buggato, capito? Però appunto ci sono capitato per caso su Instagram. Non so se sia vero, se sia tutta una montatura. Fatto sta che esiste questa cosa qui. E ho pensato, cavolo, ci siamo già. Nel senso, siamo già arrivati al robot che ti fa le faccende in casa. Ma questo proprio ne parleremo in un altro format. Sono andato a fare un esperimento scientifico. Che si chiama Bright, a cura di un gruppo di ricerca che si chiama Departments and Dragons dell'Università di Torino in collaborazione con altri con altre persone che adesso non ricordo, sinceramente. In che cosa è consistito l'esperimento? Mi hanno messo una cuffia in testa per rilevare il flusso sanguigno all'interno del mio cervello, quindi, che è una tecnologia abbastanza facile e innocua. Per cui spiegavano, servono molte, molte, molte, molte, molte, una raccolta di dati massiccia per creare una base solida per argomentare qualcosa, però allo stesso tempo è abbastanza affidabile perché effettivamente questa cuffia mostra bene le aree del cervello dove si attivano a partire appunto dalla loro minore o maggiore vascolarizzazione. Quello che secondo me, e tra l'altro è un esperimento interessante perché è il gruppo interdisciplinare, quindi di mezzo c'è sia, ci sono sia neuropsicologi, che mi pare dei fisici, e degli psicologi. Tant'è che nel bel mezzo del diciamo, dell'esperimento, loro hanno inserito degli elementi di ricerca qualitativa, non c'è solo la ricerca quantitativa. E secondo me anche un po' inconsapevolmente, nel senso che poi parlandoci, tutto sommato ho capito che quello che gli interessa per lo più sono proprio le immagini del tuo cervello che si accende a destra, a sinistra, sopra e sotto. Sono riusciti a costruire una storia molto potente da un punto di vista dell'immersività, ovvero è una storia che inizia con una forte componente competitiva e finisce con una forte componente cooperativa. E la componente cooperativa viene creata attraverso delle svolte di trama, anche molto forti. Cioè tu inizi a fare una cosa e finisci a fare una cosa molto diversa da quella che hai iniziato a fare. La prima cosa la fai contro gli altri, la seconda cosa la fai con gli altri. Nel nostro caso ha funzionato benissimo, è andato tutto liscio, nel senso che all'inizio, Madonna, eravamo i peggio stronzi, ci trattavamo veramente male e ciascuno pensava al suo. Dopo tre quarti di partita, effettivamente avevamo capito che c'era dietro un meccanismo per cui dovevamo collaborare per scoprire una cosa altra rispetto a tutto quello che stavamo di cui stavamo facendo esperienza fino a quel punto. E diciamo così, ci sono due aspetti, anzi tre, che mi hanno colpito. Il primo aspetto è proprio il trasporto emotivo durante l'esperienza di gioco. Cioè io ho switchato tra competitivo e cooperativo, cercando tra l'altro in qualche maniera, cioè innanzitutto di mantenere una coerenza di interpretazione di ruolo, i personaggi ti venivano assegnati, non è che costruivi il tuo, quindi dovevi cercare di essere coerente col personaggio che ti era stato affidato. Il mio personaggio aveva delle enormi risonanze con quello che io ho nella testa, perché, vabbè, adesso io non voglio entrare nel merito perché faranno altri esperimenti, non voglio spoilerare, chissà che non ascolti qualcuno che è anche interessato, però diciamo che mi sono ritrovato il rapporto, diciamo, con la arbitrarietà, cioè con la casualità del destino, nel senso con un personaggio fortemente legato all'idea che i nodi verranno a pettine in un modo o nell'altro, anche nel modo più strampalato possibile, diciamo. Quindi con l'accidentalità è il caso. Questa cosa mi ha, quando l'ho capita in tutto, ho pensato: accidenti, cioè come ci sono finito qua dentro? Sono io, perfetto, cazzo, maledizione, è successa un'altra volta la sincronicità. Perché la sincronicità esiste? E il terzo aspetto è stato gli esercizi che ci hanno fatto fare prima e dopo. Ce l'hanno fatto fare un sacco di questionari. A un certo punto eravamo anche un po' stufi di fare questionari. Ma uno in particolare era parecchio potente. Prima di giocare, ci hanno fatto compilare un questionario con una descrizione del nostro stato emotivo attuale e dell'opinione che noi abbiamo di noi stessi, quindi del modo in cui noi raccontiamo noi stessi. Ci hanno fatto ricompilare lo stesso questionario. Tra l'altro, anche loro hanno comunque ce l'hanno fatto fare, ma poi quando me l'hanno raccontato, ho detto: ma sì, eravamo lì, facciamoglielo fare, raccogliamo pure questi dati. Invece è potentissimo perché ti fanno raccontare le stesse cose, fai lo stesso identico questionario, identico, però ti chiedono: fallo come se fossi il tuo personaggio. Porca miseria. Nel senso, è, come dire, un'esperienza molto potente perché innanzitutto in qualche maniera ti ritrovi a fare una meta riflessione su quello che hai fatto, cioè quindi a prendere consapevolezza del tuo personaggio. E poi mentre lo compili, verifichi similarità e differenze tra te e il tuo personaggio e anche il livello di immersione che hai avuto, nel senso quanto adesso stai rispondendo davvero come il tuo personaggio e quanto stai rispondendo come Francesco che pensa al suo personaggio, che sono due cose diverse. Assolutamente sì. Però questa cosa qui, nel senso, cioè, la racconto perché è particolarmente paradigmatica, nel senso, è un esperimento di laboratorio, quindi è molto sterile, nel senso, ti mette gli elementi uno in fila all'altro, pam pam pam, parecchio chiari, però la verità è che in qualche maniera, secondo me, illuminano Una cosa che vale per tutti i giochi, cioè oggi abbiamo parlato di LARP, abbiamo parlato di gioco di ruolo perché ne ho appena parlato, e gioco di ruolo tradizionale al tavolo, di sport, vale per il Risiko, così come vale per, che ne so, Arkham Horror. Citiamo una roba cooperativa al massimo dello stress psicologico. Non, cioè, e c'è anche la politica, perché voglio dire questa cosa molto politica, cioè in qualche maniera il gioco, soprattutto quando entra nella dimensione adulta, ha bisogno di essere connotato come evasione, quando in realtà il suo meccanismo è l'immersione. Cioè io perdo una partita di Hitball, sono arrabbiato per diverse ore, forse anche giorni, forse una sconfitta mi rimane sul groppone per parecchi anni, perché io almeno due me le ricorderò vita natural durante, mannaggia loro. E giochi a Risiko, io ho visto cari amici tramutarsi in versioni di loro che non avrei voluto vedere, e io a Risiko non mi trasformo perché non voglio farlo, però appunto, ma in generale nel gioco competitivo puoi vedere l'altra faccia di persone che non conoscevi, e allo stesso tempo, in qualche maniera, per dire, come in un cooperativo ben riuscito, o comunque in una partita vinta, o quella seduta di gioco di ruolo dell'esperimento che è stata estremamente divertente, quando siamo usciti da quella biblioteca universitaria, noi eravamo felici. Nel senso, c'è stata la catarsi del gioco. Eravamo un gruppo di amici. Abbiamo fatto gli scemi dall'inizio alla fine, il gioco era costruito benissimo, le persone che l'hanno architettato lo hanno fatto estremamente bene, secondo me molto meglio di quello che loro stessi si rendono conto. E, per quanto persone comunque nerd vere, cioè nel senso dentro al mondo del gioco. Quindi io ti dico, secondo me comunque il gioco è un'esperienza con una dimensione terapeutica o comunque di, come dire, di restituzione emotiva importante. Nel senso, tu mi hai raccontato appunto che hai percepito la trasformazione forte in giochi di 3 più giorni, 2-3 giorni. Però lo psicodramma sono sedute da un'ora e mezza, due, dove giocano 3 persone. Di solito un gioco di una persona dura mezz'ora. Poi chiaro, lo psicodramma, come dire, va dritto al punto, quindi chiaramente ti cartella e tu esci dalla seduta cartellato perché è il suo obiettivo. Però secondo me ogni volta che tu in qualche maniera, torniamo alla puntata scorsa, metti il piede nella dimensione del gioco, in realtà entri in una dimensione di potenziale cura o quantomeno di un'immersione che appunto se tu pensi che sia solo evasione, in realtà, per come la vedo io, fai un torto a te stesso, perché in realtà entrerai in un modo e uscirai in un altro. Magari poi dura mezz'ora o ti resta in testa tutta la vita, come quando perdi certe partite di Hitball. Però succede, nel senso, perché poi in fondo è quella roba lì, una persona che gioca, che fa finta di essere qualcun altro, o che indossa una maschera per quanto leggera. Guarda, io credo che ci sia un aspetto legato molto anche al fatto che ormai comincio ad avere un'età. E no, perché mi rendo conto che tutto quello che hai detto per me è una cosa che ha avuto molto senso anche in generale nella vita. Cioè, Bello. arriva un punto in cui tu abbracci, se ci riesci, il fatto che le esperienze che succedono, che potresti stigmatizzare come con un giudizio, ok? Giusto o sbagliata che sia, in realtà sarebbe bene anche se è una cosa che si è intenzionati effettivamente a provare, a capire, a farle e a ascoltarsi relativamente a quelle esperienze. Cioè, imparare che cosa mi insegna questa esperienza di me. Il fatto è che nella vita vera le persone giustamente pensano che le prendi per il culo se dici, ma che cosa ti sei messo a fare questa roba che chiaramente poi ha degli effetti anche non solo su di te, ma anche sugli altri. Certo. Farlo all'interno di un contesto di gioco ti permette di come abbiamo sempre detto, di sperimentare, però mi rendo anche conto che in tanti casi ti deve anche dare, non dico il permesso, però almeno cominciare a farti capire che forse non necessariamente le esperienze che fai hanno un segno assoluto. E questo secondo me è estremamente curativo. Nell'idea del anche comprendere che noi, in quanto esseri umani, abbiamo i nostri limiti, li possiamo modificare, ma sicuramente li possiamo esplorare, che è quello che il gioco ti permette di fare. Wow, e con questa bombissima io chiuderei l'episodio, anche perché, come dire, all'inizio puntata avevamo detto, dopo i 15 minuti di tamburi che abbiamo lasciato da soli a tambureggiare, avevamo detto che l'obiettivo di questo format è di portare i giochi al confine del gioco, e caro Stefano, l'hai fatto con un punto esclamativo molto molto grande che non entra nelle stanze. Beh, l'abbiamo fatto. Dei due, guarda, mi spiace quasi, preferirei arrivarci col punto interrogativo. Vabbè, ma non è che Però, ci mancano i punti interrogativi, ogni no, tanto. lo lasciamo a chi ci ascolta il punto interrogativo. Certo, il punto interrogativo è uscire e guardare a se stessi nel gioco mentre si gioca con occhi diversi. Esatto. Che persona sei? Che persona resti per un po' dopo che hai giocato? Ti piace quella persona? Non ti piace? Non ti aspettavi di essere così, eccetera, eccetera, eccetera. Perché il gioco è esperimento, è il primo modo in cui, come abbiamo detto, inizio puntata e così chiudiamo, bello circolare come piace a me. Il gioco è il primo modo che hanno le creature viventi che giocano di fare esperienza della vita. Caro Stefano, 19.02, 3 novembre 2025, un'ora tirata come i peggio ciclisti. Se tu sei Direi che d'accordo, possiamo. Sì, direi che possiamo dirci assolutamente contenti della. esatto. Ci auguriamo buonasera vicendevolmente. E io procederei stavolta con molta, molta attenzione a far partire la sigla. Ciao, Stefano. Grazie sempre. E buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori del presente e del futuro. Buona serata a tutti. Avete ascoltato Giochi di tutto. Ora, Dio piacendo, siamo fuori onda. Non so più Tutto il col bene e il gioco e male. niente per gioco. Di Francesco Rigoli e Stefano Giacchè.